La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L'articolo 19 riguarda la libertà di religione. È interessante vedere subito la Costituzione a chi assegna questa libertà, chi è il titolare, perché? Perché gli articoli precedenti, il 17 e il 18, che riguardavano libertà di carattere politico come la riunione, l'associazione, quindi libertà associative, erano intitolate ai cittadini. L'articolo 19 invece torna a tutti. Quindi tutti significa non solo i cittadini, ma anche chiaramente gli stranieri, gli apolidi, qualunque individuo, qualunque persona. Che diritto ha in materia religiosa? Il diritto più ampio possibile, perché ha diritto di professare, farne propaganda, esercitare in privato o in pubblico. Per cui c'è piena libertà sotto tre aspetti: l'esercizio, la propaganda e la professione di fede, che è la base, in forma individuale e associata. Anche qui libertà amplissima, con una sola limitazione: che i riti non siano contrari al buon costume, che quindi non offendano la morale pubblica. Ovviamente l'articolo 19 va letto assieme agli articoli 7 e 8 che abbiamo già esaminato, perché abbiamo ricordato che l'Italia è uno Stato laico, aconfessionale, in cui tutte le confessioni sono libere davanti alla legge, egualmente libere. Ma la confessione religiosa è un qualcosa di collettivo. Il diritto, la libertà di esercitare la fede religiosa è anche un qualcosa di individuale e quindi ha un'apposita tutela e protezione nell'articolo 19 in forma amplissima, individuale, associata. Professare, farne propaganda, esercitare in privato o in pubblico. Ricordiamo che invece il regime precedente prevedeva una religione di Stato, la religione cattolica, e le altre confessioni erano culti ammessi, come recitava la legge. Culto ammesso ovviamente significa che è un regime di libertà molto meno favorevole.